Quindi, trasferimento di fase. Il primo tipo di trasferimento di fase che andiamo a vedere è il trasferimento di fase liquido-liquido, dove ci saranno due fasi di solvente. Uno è l'acqua, e di acqua ce n'è tanta, e un altro è un solvente che solitamente è il cloroformio, di cui ce n'è poco, ma poi potremo vedere con l'andare avanti che possiamo anche utilizzare qualche altro solvente. Diciamo che questo tipo di sintesi nasce sostanzialmente con il cloroformio e c'è una ragione, perché siamo in presenza di un catalizzatore in quantità catalitica, che è il cosiddetto trasferitore di fase, che trasferisce prodotti e reagenti da una fase all'altra fase. Il trasferimento di fase liquido-liquido rappresenta praticamente il sogno di costruire un grignard in acqua. Ovviamente il grignard in acqua non c'è, non si può fare, perché il reattivo organo metallico caratterizzato da un legame carbonio-magnesio ha la caratteristica di essere una base forte e se lo butti nell'acqua si incendia, sostanzialmente da quanto reagisce con velocità con l'acqua. Ma quello che noi vogliamo tentare di fare è questa reazione. Una volta si faceva così, RX più magnesio che dava RMgX, questa reazione era SET, si chiama Single Electron Transfer, il meccanismo della reazione era questo, l'RMgX più RY avrebbe dovuto dare RR più MGXY. Sostanzialmente questa era la reazione. Questa reazione in realtà non avviene. Non so se ci avete mai fatto caso. La storia di questa reazione è una storia incredibile. Grignard aveva fatto di tutto con questa reazione. L'unica cosa che non aveva fatto era il coupling tra un RMgX e un RX, cioè un R formalmente caricato negativamente e un R formalmente caricato positivamente. Il coupling, cioè l'accoppiamento tra questi due pezzi, lo aveva pubblicato su un Tetrahedron Letters tanti anni fa. Siamo a metà degli anni 50. Solamente che veniva solo a lui, perché tutti gli altri che avevano provato a fare questa reazione a nessuno gli era mai venuto. Si scoprì così che Grignard dovette ritrattare il suo lavoro, ritirarlo, perché era sbagliato, perché sostanzialmente l'hardness di un R- e di un R+, non erano compatibili tra di loro per poter dare con efficienza un coupling. E allora cosa succedeva? Succedeva che nel tritare i trucioli di magnesio che servivano per la reazione, si usava un apparecchio che era di nickel, era acciaio e lasciava piccolissime quantità di nickel nel magnesio. Le piccolissime quantità di nickel erano quelle che attraverso un nickel alchile che si formava nella reazione facevano avvenire la reazione stessa. In quel contesto ve lo ricordo perché questa è storia. RX col magnesio non reagiva, ma col nickel reagisce a meno 20 gradi immediatamente facendo RNIX. Questo era quello che succedeva. Era qui che si formava un nickel alchile. Il nickel alchile ovviamente reagiva con il reattivo di Grignard, con l'altro gruppo, con l'RMgX che io mi ero preparato e che avevo in soluzione, RMgX, e ovviamente si otteneva R nickel R più MgX2 che precipitava. Reazione di eliminazione riduttiva con formazione di RR, ripristino del nickel 0 e le cose andavano avanti. Se non ci mettevo il nickel, questa reazione non andava. Quindi, con il reattivo di Grignard si può fare di tutto, ma non il coupling, a meno che dentro la reazione non ci siano tracce di nickel. In ogni caso, in acqua questa reazione non si può fare. Perché il nichel alchile, così come il reattivo di Grignard, in acqua non sono stabili. L'idea di fare un reattivo, tra virgolette, organometallico, il cui controione potesse resistere nell'acqua, sarebbe stata una cosa meravigliosa. Ora, l'unica cosa che resiste nell'acqua al posto del magnesio, insomma, ci si può mettere il fosforo, ci si può mettere l'azoto. E così si pensò di utilizzare i cosiddetti trasferitori di fase, che altro non erano che sali d'ammonio quaternario. Allora, cosa sono i sali d'ammonio quaternario? Vi ricordo che nella Green Chemistry non solo è importante utilizzare solventi come l'acqua, e fin qui vedrete che ci cadremo in pieno, ma utilizzare catalizzatori in quantità catalitica. Sostanzialmente, i catalizzatori che noi utilizziamo sono sali d'ammonio quaternari, che sono poi subito dopo diventati commerciali, perché non appena ci siamo resi conto che queste reazioni avrebbero nell'industria provocato una rivoluzione nel sistema di fare le reazioni di coupling, ecco che le industrie si sono messe a produrli per poterli poi vendere. Allora, noi abbiamo una struttura di questo tipo sostanzialmente. R4N più X meno, un sale d'ammonio quaternario con il controione. Il sale d'ammonio quaternario che noi andiamo a usare è un sale d'ammonio che ha la caratteristica di essere e solubile nell'acqua, e beh, è un sale d'ammonio, quindi il legame tra la parte positiva e la parte negativa è sostanzialmente ionica, ma se la parte legata all'azoto, cioè questi quattro gruppi R, hanno qualche caratteristica fondamentale, beh, essi potrebbero costituire anche un materiale che ha una certa solubilità, anche, guarda caso, nei solventi organici come il cloroformio, che è un solvente sicuramente polare. Per cui si cominciarono a utilizzare composti di questo tipo: trietil, benzil, ammonio, bromuro. Questi catalizzatori, che si chiamano Triton, sono della serie Triton, è un nome industriale sostanzialmente, hanno la caratteristica di essere estremamente solubili sia in cloroformio che nell'acqua. Benissimo, allora che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi facciamo questa reazione, che una volta avremmo fatto sostanzialmente nelle condizioni di un reattivo di Grignard, quindi sotto azoto, tutti i solventi distillati, l'apparecchiatura sfiammata, i solventi distillati come il tetraidrofurano, su sodio, litio alluminio idruro, particolari attenzioni quindi. E quindi solo per cominciare a fare una reazione ci voleva un giorno di preparazione, quando uno era bravo e faceva le cose velocemente. Ora si fanno in un becher all'aperto con una ancoretta magnetica che gira vorticosamente. In un becher. Allora si fa prima, si fa prima sì. Si fa prima soprattutto anche a lavare poi l'apparecchiatura, perché noi non ci pensiamo mai, ma il lavaggio dell'apparecchiatura prevede, come tutti sanno, in laboratorio, quindi immaginatevi il lavaggio di un impianto industriale, di utilizzare i solventi, di utilizzare grandi quantità di etere, di acetone. Io, per esempio, quando lavoravo in laboratorio, sostanzialmente consumavo 5 litri di etere e 5 di acetone solo per lavare la vetreria di un giorno. Erano tempi incredibili, eh. Chiaramente l'inquinamento andava alle stelle, no? Beh, allora, noi abbiamo un becher, quindi un bicchiere, con due fasi. Una fase acquosa e una fase cloroformica. CH, CL3, H2O. Nella fase acquosa noi abbiamo anche KOH. e la KOH ce l'abbiamo all'inizio con una bella concentrazione, 20%. Vedremo che poi possiamo anche scendere addirittura anche al 5% in alcuni casi. Io voglio fare questa reazione, la reazione di coupling. Quindi ho un composto che ha un idrogeno acido che deve essere salificato e un composto organico che farà da elettrofilo. Quindi ci avrò un RH che ha l'idrogeno acido e un RX, R'X, che è il mio alogenuro alchilico, che deve servire per fare la reazione. Io quello che voglio fare è R'. Quindi sostanzialmente la mia base mi dovrebbe in qualche modo togliere questo idrogeno acido, poi vedremo quanto acido, e l'anione corrispondente unirsi all'R'X. Allora, non succede assolutamente niente fino all'istante in cui io non aggiungo il 5% di trietilbenzilammoniobromuro. Quello che succede è che R4N più Br viene a contatto con l'OH- e si forma subito un equilibrio in cui viene sostituito il controione del sale d'ammonio. Il controione del sale d'ammonio, ma questi sali d'ammonio vanno in acqua e vanno anche in solvente organico. L'idrossido di trietilbenzilammoniobromuro sale in fase organica. Sale o scende, dipenderà poi dal solvente che io utilizzo. E questo qui io lo faccio reagire con, anzi mettiamo di qua, con RH, che sta ovviamente in fase organica, perché è un composto organico, mi devo aspettare che stia nel cloroformio. Questo è un idrogeno acido, per cui ci sarà un equilibrio, andrà a formarsi l'acqua, che scende nella fase acquosa, più R4N più R'-. Allora, te guarda un po', Questo composto qui sostanzialmente è un R meno, è un carbanione. Il suo controione però non è più il magnesio, non è più il nickel, è un sale d'ammonio. Quindi questo tipo di controione, che è un R meno, prevede che questo R- possa reagire con l'RX e ovviamente sempre in soluzione organica R4N più R- più R'X, mi immagino che ci sarà una sostituzione nucleofila in cui R'. Si forma, si riforma R4N più X meno, che è il bromuro che io ci ho messo all'inizio, che ritorna e riscende in fase acquosa e ridà origine all'equilibrio più OH meno, che fa questo lavoro. Un 5% di trietilbenzilammoniobromuro è in grado di fare questa reazione sovente in tempi che noi non ci immaginiamo nemmeno, 5 minuti. Alcune volte ci vorrà di più, vedremo, perché le reazioni non sono sempre tutte facilissime, ma abbiamo fatto sostanzialmente una reazione in acqua. Alla fine noi nel nostro strato piccolissimo di cloroformio ci troviamo tutto il nostro prodotto. Sostanzialmente basta aprire quello che sarà quell'imbuto separatore industriale per far uscire tutta l'acqua e tenersi il cloroformio e separare così le due fasi, eliminare il cloroformio dopo averlo seccato a rota vapor. Sostanzialmente noi abbiamo il prodotto di reazione con qualche forse minima traccia di catalizzatore. Basta. Una reazione che è durata pochissimo. Ora, questa reazione ha dei vantaggi sostanziali, perché perché innanzitutto permette di avere sempre una bassa concentrazione della specie nucleofila, perché l'R- che noi abbiamo in soluzione avrà una concentrazione pari a quella al massimo del catalizzatore, quindi al massimo il 5%. Possiamo arrivare ad utilizzare anche l'1% di trietilbenzilammonio bromuro. Si allungheranno un pochino i tempi di reazione, ma chi se ne frega se invece di durare magari un'ora dura 2 ore la reazione, o invece di durare 5 minuti dura 7, non ce ne importa niente. Rispetto a una giornata che ci voleva prima con il metodo classico e con l'uso di solventi come il tetraidrofurano, che sappiamo non è proprio il massimo della salute. E questo è il primo aspetto. Per fare questo tipo di operazione, cioè per strappare l'idrogeno acido, è chiaro che noi dobbiamo avere una base abbastanza forte. Per questo noi utilizziamo l'idrossido, che è un idrossido di ammonio, sostanzialmente, non è NaOH. Il fatto che noi se ne abbia sempre poca di OH- in soluzione ci permette anche di tenere sotto controllo quella che potrebbe essere una reazione indesiderata, cioè la reazione di eliminazione, che dipende ovviamente dalla concentrazione dell'OH-. Siccome tra le due reazioni, sempre e sovente, se non ci sono condizioni particolari, la reazione di sostituzione è sempre favorita rispetto alla reazione di eliminazione. Diventa lenta quando c'è ovviamente un grosso ingombro sterico da dover vincere. Allora sarebbe sempre più veloce la reazione di sostituzione nucleofila, ma l'ingombro sterico la rallenta. E allora questo vuol dire che se io vengo preso dalla smania di voler fare le reazioni e faccio l'errore di scaldare, allora sì che la reazione di eliminazione diventa più veloce della reazione di sostituzione e sono fregato. Qui non si scalda, si tiene tutto a temperatura ambiente. Quindi bassa concentrazione di OH-, non si scalda. Il problema dell'ingombro sterico è molto attenuato. Perché? Perché l'anione che viene portato in soluzione, cioè l'R-, di cui ce n'è poco, è sostanzialmente un anione nudo, come direbbe Corey, cioè non solvatato dalle molecole di solvente, che al massimo si mettono a solvatare il controione N+, cioè il sale d'ammonio. R- è nudo e quindi lui fa la sostituzione nucleofila, che, studiando il meccanismo di reazione, si vede che avviene nella fase organica, non nella fase acquosa. Per cui, per fare bene questa reazione, ci vuole una forte agitazione. Questa è l'unica cosa che sostanzialmente è necessaria, perché se te tieni ferme le due fasi o non le agiti vigorosamente, la reazione diventa lentissima, ovviamente, oppure si ferma. Ma sotto una vigorosa agitazione, ecco che le cose si risolvono rapidamente. Ora, quali sono i limiti di questa reazione? I limiti di questa reazione sono il calore. Abbiamo detto che noi non scaldiamo. Non scaldiamo, possiamo scaldare poco, a seconda del sale d'ammonio che abbiamo a disposizione, ma sostanzialmente in queste condizioni non si scalda mai. Perché? Semplice. Il sale d'ammonio che noi abbiamo è un sale d'ammonio che ha come controione una base forte, e ci dobbiamo ricordare che a 140 gradi il trietilbenzilammoniobromuro elimina etilene, perché ovviamente fa la reazione di eliminazione dei sali d'ammonio quaternari per dare le olefine, sostanzialmente. Che avviene comunque a 140 gradi, però siccome di catalizzatore ce n'ho poco, e magari è vero che bisogna salire alti con la temperatura, ma se me ne sei sputtana quel poco che c'è, dopo alla fine non mi ci rimane più niente. non abbiamo comunque la necessità di scaldare, perché scaldare vuol dire aumentare la velocità di reazione della reazione di eliminazione, cosa che noi non vogliamo, anzi, vogliamo tenere la reazione a bada, e con questo sistema ci riusciamo sicuramente bene. Ora, sostanzialmente, un altro tipo di problematica che questa reazione potrebbe avere è la presenza di gruppi funzionali che potrebbero non essere stabili in un ambiente così basico. Un estere non ce lo posso mettere, perché l'estere nell'NaOH al 20% si idrolizza in 5 secondi. Questa potrebbe sembrare una problematica, però vedremo che non lo è. Potremmo, per esempio, stare molto attenti all'idea delle reazioni di condensazione. Se io uso una aldeide o un chetone che hanno idrogeni acidi, è chiaro che l'NaOH al 20% mi può far partire questa reazione. Se io ho un triclorometilchetone, lo butto nell'NaOH al 20%, c'ho il saggio dell'alformio. Bisogna che stia attento. Però vedremo che quasi sempre queste limitazioni non ci sono. Perché? Perché la reazione che noi andiamo a fare è talmente veloce che è più veloce delle reazioni di sputtanolisi dei prodotti che noi in qualche modo ci dovremmo aspettare. Oppure possiamo tranquillamente lavorare con degli esteri, per esempio, perché la velocità di idrolisi degli esteri, soprattutto quelli fortemente ingombranti, in NaOH non ha luogo. Se io voglio usare un estere per fare le mie reazioni e il gruppo estereo non deve essere toccato, posso usare il terzial butilestere, perché il terzial butilestere, sì, certo, dopo un po', 4 giorni, un po' di OH- gli fa qualcosa, ma se no non lo tocca nemmeno. Abbiamo visto l'altro giorno che gli esteri hanno questo problema, cioè questo estere qui, terzial butilico, si rompe in ambiente acido, non si rompe in ambiente basico, perché l'OH- qui non ce la fa ad arrivare. Ecco, quindi abbiamo la possibilità, ora vediamo qualche esempio, di riuscire a pilotare la reazione come vogliamo. Vediamo l'altro problema terminale, che è quello che ci interessa di più, che potrebbe essere rappresentativo di una limitazione di questa reazione. Questo problema è dato dall'acidità dell'idrogeno che noi dobbiamo estrarre. È chiaro che un alcol, un acido, l'idrogeno lo estraggo subito, ma un idrogeno acido, ma per esempio, prendi questo caso, fenile CH2C triplo legame N. Questo nitrile ha degli idrogeni acidi, fenilacetonitrile, lo potremmo chiamare così, ha degli idrogeni acidi. Con il triton B, trietil, allora scriviamo, teva, trietil, benzil, ammonio, bromuro, che poi sarà idrossido, come lo metto nell'NaOH al 20%, prende questo idrogeno acido in pochi secondi e ne fa l'anione. Quindi già abbiamo l'idea che questo anione è un anione abbastanza facile da formarsi. Ci sono degli idrogeni che sono in alfa a un nitrile e inoltre anche sono benzilici. Bene, in questo contesto la presenza dello, che ne so, ioduro di metile che io ci metto dentro, goccia a goccia, mi dà immediatamente la reazione di chelazione. Sostanzialmente questa reazione, che si fa in un becher, si fa in questo modo: ci si mette l'acqua, ci si mette il cloroformio, ci si mette il reagente che dà gli idrogeni acidi e che rimane ovviamente in soluzione cloroformica, ci si aggiunge il triton B e si vede che qualcosa passa nell'acqua e si gocciola plip plip plip lo ioduro di metile. Ogni goccia di ioduro di metile che entra in soluzione passa solamente in fase cloroformica. In fase cloroformica viene aggredito dall'anione che si è formato e lì in fase cloroformica avviene la reazione e il reagente mai va a contatto con l'ambiente acquoso. Se tu usi lo ioduro d'etile, potresti, se non fai in questo modo, mantenere lo ioduro d'etile in presenza, che ha una certa solubilità nell'acqua, in presenza della KOH, dell'NaOH al 20%, e questo potrebbe dare etilene. Te lo stai scaldando e quindi sostanzialmente la reazione è lenta, però evitiamo anche questo e buttiamoci dentro il nostro alogenuro alchilico solamente quando già tutti i reagenti sono pronti ad aspettarlo. Se noi andiamo avanti e scaldiamo a 60 gradi, quindi siamo sotto la reazione di Hoffmann di eliminazione, sui testi classici c'è scritto che la reazione avviene a 180 gradi, quindi noi otterremo con lo stesso meccanismo la dimetilazione. Le rese 100%, 96%, questi sono i valori. Non si scende di sotto di mai di un 91, 92, 93%. In questo contesto si nota una cosa fondamentale, che io non ho la reazione indesiderata di dimetilazione o di alchilazione, perché ovviamente questo idrogeno qui, che si è formato dalla metilazione del primo step, è meno acido del primo e quindi ha più difficoltà a essere strappato. In più c'è il problema che la sostituzione nucleofila avviene su una roba che è più ingombrata stericamente, quindi il secondo step della reazione sostanzialmente è più lento. E fin qua ci siamo. Possiamo comprendere anche un'altra cosa, che è forse una delle cose più carine di questa reazione, perché detta così sembra sì, vabbè, una reazione, ma famo un po' la stessa reazione, se vuoi prendiamo cioè lo stesso composto di partenza, usiamolo come modello. Abbiamo usato anche come modello l'altra volta per vedere che cosa succedeva con il dimetilcarbonato, e facciamo reagire con il saramone quaternario, trietili, benzina, ammonio, bromuro, che poi metteremo nella OH- al 20%, e ci mettiamo dentro il nostro elettrofilo. Il nostro elettrofilo, quando l'anione si sarà formato, che viene gocciolato dentro, potrebbe essere questo, per esempio. Un chetone alfa beta insaturo. Prima ci avevamo messo un alogenuro e ora ci mettiamo un chetone alfa beta insaturo. Quello che succede è la seguente semplice cosa. L'attacco 1,4. Per dare esclusivamente l'attacco 1,4, per dare CH2, CH, doppio legame, CO, meno R, che in acqua, da solo, ovviamente darà il prodotto finale, che sarà questo. Vediamo la struttura di questo signore qua. CH2, CH2, CO, R, guarda, questo è 1, 2, 3, 4, 5. Vedi, abbiamo ottenuto un composto 1,5, una classica, credo, reazione che potremmo chiamare di Dieckmann. si chiamano così queste condensazioni 1,4. La cosa interessante, come al solito io dico sempre a tutti quanti, ricordatevi che le reazioni di condensazione, che sono il 30% circa delle reazioni di chimica organica, della natura, quindi un terzo, che sono importantissime, danno facilmente composti 1,3 e 1,5, difficilmente 1,2 e 1,4. Perché la retroanalisi dei composti 1,2 e 1,4 prevede di partire da due equivalenti sintetici di cui uno si fa facile e l'altro si fa in modo difficile. In questo contesto invece le polarizzazioni della molecola sono classiche e ci permettono di dire che se questo lato, questo è negativo, questo è positivo, questo sarà negativo, e infatti eccolo lì, l'abbiamo ottenuto facilmente. Quindi se questo è negativo, questo è positivo, questo è negativo, questo è positivo, e infatti ci appiccica la cosa negativa. È il gioco delle calamite. Quando tolgo un atomo di carbonio a uno dei due non gli torna più questo tipo di polarità, ecco perché 1,2, 1,4 non siamo in grado di farlo. Cosa vuol dire questa cosa qui? Cioè la chiave di lettura, che è la cosa carina, è che noi abbiamo fatto un anione al carbonio soft, perché ha attaccato 1,4. Sarebbe, se avesse attaccato 1,2, avremmo potuto dedurne che era hard. Quindi, morale della favola, noi abbiamo fatto un reattivo di Grignard che al posto del magnesio c'ha l'azoto, e al posto di essere una carica R- sovente hard, è una carica meno assolutamente soft. Perché? Perché R- qualcosa, metallo, l'R- ha una elettronegatività che noi possiamo modulare a seconda della scelta del metallo che ci mettiamo appiccicato. Quindi un conto è un litio alchile, un conto è un boro alchile, un conto è un piombo alchile, un conto è un ferro alchile, un nichel alchile. E quindi ti puoi immaginare un ammonio alchile. Ecco, siccome l'ammonio ha caratteristiche soft, è chiaro che dona caratteristiche soft anche al carbonio a cui è sostanzialmente legato. Ma questo però ci permette di fare delle cose che prima non avremmo potuto fare. Una delle cose che possiamo fare è un'applicazione di questa reazione, che è la classica sintesi malonica. Allora voi immaginate una sintesi malonica fatta nel modo classico. Si prende il malonato di etile, etile, CH2, COO, etile. Il malonato di etile si tratta con una base, solitamente il sodio idruro. Ci si deve mettere il tetraidrofurano, tutto distillato. Si ottiene COO, etile, CH, meno COO, etile, poi ci si aggiunge distillatissimo l'alogenuro alchilico, eccetera, e andiamo avanti. In questo contesto la reazione, cavolo, però ci sono degli esteri, devo fare mettere degli esteri dentro l'NaOH al 20%. Ci sono diverse possibilità, ma la più semplice è di metterci questo composto qui, terziario utile, CH2, CO, terziario utile, eccolo qua. Il nostro terziario utile a questo punto avrà una velocità di idrolisi molto bassa, siccome la velocità di reazione dell'alchilazione del malonato è velocissima, 5 minuti, cioè te invece idrolisi di un estere cosa fai? Ci metti l'NaOH e bolli, fino a che non si è spaccato tutto l'estere e ha dato il sale dell'acido. In questo non ci arriverà mai la reazione a questo lavoro qui. Trietil benzil ammonio bromuro, l'OH- che vuol dire trietil benzil ammonio idrossido, RX, ed ecco che ti c'hai COO terziario butile, CHR, COO terziario butile. Non è l'unico trucco che noi possiamo fare. Perché noi possiamo migliorare ancora il tutto gocciolando nella soluzione il malonato, in modo che l'estere stia nell'ambiente basico il miglior tempo possibile. Tanto come arriva il malonato lì, ha già tutti gli elementi per poter reagire. Qualche volta questa reazione è talmente veloce che scalda. E allora, nessun problema, si fa in un bagno di ghiaccio, acqua e ghiaccio. Devo evitare il riscaldamento perché il riscaldamento aumenta la velocità di tutte le reazioni e quindi se io ho la competizione con qualche altra reazione non ce la voglio, quindi devo stare a temperatura ambiente sostanzialmente. Si può eliminare la reazione di idrolisi degli esteri diminuendo la concentrazione dell'NaOH. L'NaOH deve essere estremamente concentrato di partenza, perché si è scoperto che la reazione è estremamente veloce in questo modo, perché l'OH-, come voi sapete, non è una grandissima base. Sì, col malonato va a scheggia, perché il pK del malonato è 13. Allora, nel caso del malonato, non è necessario aggiungere tutta questa NaOH, me la fai abbassare la concentrazione dell'NaOH? Proviamo al 15%, viene benissimo. Proviamo al 10%, viene benissimo. Proviamo al 7% e viene un pochino più lenta, ma benissimo lo stesso. E in quel contesto io che cosa ho fatto? Magari ho usato il malonato di etile, perché tanto la idrolisi dell'estere è comunque più lenta della reazione che voglio io. La mia reazione avviene in mezz'ora, magari ho il 2% di estere idrolizzato, vabbè, pazienza, chi se ne frega, non ho utilizzato il diterzial butile che potrebbe costare di più, ma comunque ho perso il 3% di prodotto, ma chi se ne frega, però sono andato avanti lo stesso. Ovviamente si può utilizzare tutta la casistica delle reazioni con il malonato, perché il malonato fa di tutto, non solo le reazioni di addizione 1,4, non solo... Il malonato non condensa con se stesso. Perché non condensa con se stesso il malonato? Il malonato non condensa con se stesso perché l'anione che io ho ottenuto, questo, già di suo, quando qui c'era il sodio, perché avevo utilizzato il sodio idruro per estrarre l'idrogeno acido del malonato, era soft. Figurati se ci metto l'ammonio. È fondamentale questa cosa qui, è fondamentale. Io ho sempre comunque un anione soft. L'anione soft del malonato, che ha la sua carica negativa su 5 atomi, cioè 2 atomi di ossigeno e 3 atomi di carbonio, ha un orbitale gigantesco, quindi a bassa energia, grosso, gonfio, facilmente polarizzabile e quindi strasoft. Quindi il malonato con l'estere non ci reagisce, col COOR non reagisce. In ogni caso, quindi, questa è la ragione fondamentale del perché la sintesi malonica ha grande successo. Perché l'anione malonato non può interagire con se stesso e quindi non dà origine alla autocondensazione. Quindi ci posso mettere anche l'NaOH al 20%, ma un malonato farà altre cose, ma con se stesso non reagisce. Il problema della softness di questa reazione è legato alla, che ne so, alchilazione che noi possiamo avere su composti di questo genere, per esempio RCH2COR. In queste condizioni di reazione, quando io metto dentro tutto il mio chetone con idrogeni acidi, nel trietil, benzil, ammonio, bromuro e OH-, la cosa che succede subito è ovviamente la formazione dell'anione. L'anione è così fatto. Questo anione ha delle forme di risonanza. L'anione enolato che si forma è in realtà la specie che c'è. Cioè il 99,9% di questo signore qui. E poi un pochino di questo. In realtà, l'ho detta male, il 99,9% di aspetto di questo composto è fatto così. Perché questi due composti sono lo stesso composto scritto in questo modo. perché è una formula limite di risonanza, quindi sono due facce di un'unica medaglia, dove la grande densità di carica sta sull'ossigeno, non sul carbonio. Bene, ora noi abbiamo qui il problema che abbiamo in tutte le reazioni di condensazione, che è la C e la O alchilazione. Già, perché? Quando io metto qui dentro un elettrofilo, più, l'elettrofilo si aggancerà qui o si aggancerà qui? Già. Se l'elettrofilo è hard, si attacca tutto qui. Se l'elettrofilo è soft, si attacca tutto qui. Quindi, l'idea del vecchio chimico organico che diceva ma di questo non ce n'è niente, quindi reagirà tutto questo, non va bene. Perché in realtà si scopriva quasi sempre che poi i composti carbonici reagiscono al carbonio nelle reazioni di condensazione, quasi mai all'ossigeno. Per farli reagire all'ossigeno bisogna creare le condizioni per cui l'ossigeno reagisca. Cioè, se in queste condizioni tu ci metti dentro il cloruro di trimetilsilicio, silicio, metile, metile, metile, va tutto di qua. Se tu ci metti il cloruro di terziarbutile, è la cosa più semplice, va tutto di qua. Allora capisci che non è, perché il gombro sterico, vedrai, è lo stesso, non è un problema legato al quanto ce n'è della forma carbonio meno o della forma ossigeno meno. Il problema è che la velocità di reazione, quando tu introduci un alogenuro soft dentro questa reazione, è talmente più veloce dell'altra possibilità, che anche se la concentrazione dell'altro prodotto è 99.999 volte superiore, non la guarda nemmeno in faccia. Ce n'è una sola di molecola che per un istante avrà la carica negativa su questo atomo di carbonio, se la piglia lui. Ecco, queste sono le condizioni classiche. Quindi, se io faccio reagire questa cosa con lo ioduro di metile, è chiaro che lo ioduro di metile va qui. È chiaro che se io uso un metile più hard, non posso usare il fluoruro di metile perché mi ci vorrebbe una apparecchiatura di quarzo, ma state tranquilli che andrebbe a finire sull'ossigeno, perché il fluoruro di metile è un metile attaccato a un fluoro che è hard, quindi ardizza anche il CH3. È evidente che come te passi da un alogenuro primario, secondario, terziario, passi da un alogenuro potenzialmente hard, più delta, ma mai più positivo, carbocatione, ad un alogenuro che invece è un carbocatione, quindi passi a un alogenuro soft. Bene. Nel caso della sostanziale reazione in trasferimento di fase, è tutto soft, è sempre tutto soft. Roba hard non ne avrai mai, non potrai mai fare un viniletere, non ti verrà mai con questa che sarebbe la classica reazione di Williamson per fare i vinileteri, non la fai, perché i prodotti sono soft. L'anione all'ammonio è strasoft. E questo è sicuramente un grande vantaggio. Bene. Che cosa ci possiamo fare? Allora, oltre che alchilazioni di questo tipo, possiamo fare eteri ed esteri e ammine lavorando su questi idrogeni che sono ancora più acidi. Cioè, io ho un alcol, ROH, lo tratto con le condizioni del trietil benzil ammonio bromuro in OH-, anche il 5%, anche l'1% di trietilbenzilammonio bromuro va bene, e qui l'idrossido io non l'ho mai usato al 20%, l'avrò usato al 5, 6, 7%. Chiaramente otteniamo subito l'anione, e questo anione subito reagisce con il controione R'X, per dare la reazione di Williamson. Ma questa reazione avviene in 5 minuti, a temperatura ambiente. Hai usato un Becher, non hai usato un pallone a tre colli munito di refrigerante, imbuto gocciolatore, agitatore meccanico, dove è stato fatto preventivamente il vuoto e l'azoto, c'è cioè l'atmosfera inerte, il solvente che è il tetraidrofurano, era distillato su sodio, e l'alcol è stato distillato, quindi la distillazione dell'alcol non è banale per toglierci l'acqua, l'RX era stato distillato, eccetera, eccetera, o cristallizzato a seconda di quello che è. Ci passi una giornata solamente a preparare la reazione. Che ti frega che ci sia dell'acqua nell'RX? Tanto il solvente è acqua. Il cloroformio che usi, lo butti nell'acqua, anche se c'è qualche impurezza, chi se ne frega? Quindi, nel becker, di reazione. Perché sotto azoto? Non ha nessun senso. 5 minuti e c'hai il tuo prodotto. Reazione di Williamson, meravigliosa. Sostanzialmente. Se io voglio ottenere un'ammina, l'ammina è fatta così, RNH2. Con questo criterio io posso ottenere subito RNH- come controione il sale d'ammonio, e questo lo faccio reagire con R'X. E il risultato sarà RNH R'. Se insisto, perché qui ho due idrogeni acidi, ma il secondo è più lento a essere estratto, vado avanti e mi faccio una seconda ammina, RN R'1 R'2. È semplice, siccome la reazione è veloce, è quasi una quasi multi-component reaction, nel senso che io faccio tutto nello stesso bulk di reazione, ma aggiungo R'X subito, aspetto 5 minuti, faccio una cromatografia di controllo, aggiungo R2Y ed ecco che ho fatto la mia ammina terziaria. Con la accortezza di aggiungere l'alogenuro alchilico più reattivo per ultimo, perché ovviamente questo sarà, essendo il più reattivo, è quello che reagirà meglio anche di fronte a un'ammina secondaria che ha già un grosso ingombro sterico. Se io devo paragonare questa reazione alla metilazione esauriente di Hoffman, mi viene da ridere. Perché nella metilazione esauriente di Hoffman, io per fare una ammina terziaria devo prendere l'ammoniaca, trattarla con RX. Non posso fare sicuramente una scelta come qui, dove R1 e R2 sono diversi. Mi tocca un'ammina con R1 e R2 uguali. E poi ce l'ho in presenza dell'ammoniaca in eccesso, del sale d'ammonio quaternario, dell'ammina secondaria e primaria. E devo fare la separazione, che mi costa un sacco di soldi, mi abbatte le rese e tempi di reazioni allucinanti. Non c'è paragone, i tempi di reazione sono irrisori. Per esempio, prendiamo questo composto qui, che a noi ci piace tanto perché è un sintone C4, cioè il butendiolo cis. Avrei potuto prendere anche trans, ma lo prendo cis, perché così vi faccio vedere che il doppio legame in queste condizioni cis è e cis rimane. Voglio bloccare questi due OH, proteggerli. Posso usare il cretilbenzilammoniobromuro e fare la reazione. Voglio proteggerli questa volta, voglio bloccarli, voglio funzionalizzarli con dei cloruri acidi. Cloruri acidi, sì. Per esempio con il fenile COCl, per farne un estere. C'ho l'alcol, voglio fare l'estere. Terziabutile COCl, benzoile COCl, paratoluensolforile, mi piace questo. Cloruro di paratoluensolforile, voglio fare un solfonato, no? A volte succede che ne so, perché il solfonato poi non è un gruppo protettivo come qualcuno pensa degli alcoli, ma è un gruppo attivatore, perché trasforma l'alcol in un buon gruppo uscente, perché il solfonato, essendo l'acido solfonico un acido forte, il paratoluensolfonato è una base debole, dunque un buon gruppo uscente. Prendo il mio butendiolo, lo metto nel mio becker, con l'acqua, con un po' di cloroformio, con un pochino di triton B dentro, e ci gocciolo dentro questa roba. A prima vista è una follia. Te stai buttando dentro il cloruro di paratoluen solfonile nelle NaOH al 20%. Che ti aspetteresti? Quello che c'è scritto sui libri, che si sputtana tutto in 4 secondi. Ci aggiungo anche questo. Cloruro acetile. E si scopre una cosa meravigliosa, che sui libri non c'è scritta. Il cloruro di paratoluen solfonile nell'NaOH al 20% è stabile per 20 giorni. Come? Non fa la sostituzione nucleofila acilica? RCOCl più OH meno. Così deve fare. C'è scritto sui libri. O meno OH Cl. E poi esce il buon gruppo uscente. Cl meno RCOOH, che subito dà origine a RCO meno. Deve fare così. Il cloruro dell'acido fa così. Non è vero. Perché? Allora, qui state attenti perché prendete una cantonata della Madonna. Come si fa l'ammide? L'ammide si fa da un cloruro acido con una soluzione di ammonia da 17%. Allora, te lo devi chiedere. Perché io me lo sono chiesto ai miei tempi, no? E il professore mi guardava con per dire, aiuto, non lo so. Io ho il cloruro di un acido, ci metto l'ammoniaca, soluzione concentrata al 17%, boccetta, acqua e ammoniaca, e scopro che il risultato finale è quantitativamente RCONH2. Ok? E l'acido cloridrico, che è NH4Cl, viene fuori sostanzialmente. Ma come? Nell'acqua c'ho solo il 17% di ammoniaca, che è una base che fa ridere i polli, e c'ho l'OH meno, che è fortissimo, perché il pH di una soluzione ammoniacale al 17% di ammoniaca, la cartina è blu scura. Come mai non avviene la reazione di sopra e avviene la reazione di sotto? Perché il cloruro degli acidi è soft. E il doppietto dell'ammoniaca è soft, l'OH- è hard, e non gliene frega niente di reagire con i cloruri acidi. Allora, quello che c'è scritto sui libri è sbagliato. Figurati il cloruro di paratoluen solfonile. Il cloruro di paratoluen solfonile è stra-soft, perché lo zolfo è estremamente più soft del carbonio, non a caso è anche più grosso, lui è 32 contro il carbonio che vale 12. Poi questa carica positiva, lo zolfo, ce l'ha un po' a passeggio su tutta la molecola, una carica più delta. L'avevamo intravisto una delle volte scorse, vi ricordo, quando noi abbiamo parlato della sostituzione elettrofila, la reversibilità della solfonazione, SO3 è soft e quindi attacca bene il benzene che è soft. Gli elettrofili più forti sono soft. Quindi ce lo ritroviamo il gruppo, lo zolfo soft, che quindi preferisce essere attaccato dall'ammoniaca un milione di volte. E una volta che si è formata l'ammide, voilà, il problema non si pone più perché l'OH- non c'entra più. Quindi quando tu vai a fare questa reazione con 1,4 butendiolo cis, con il cloruro di benzoile, il cloruro di pivaloile, sì, l'ho scritto due volte questo. Ci puoi mettere dei sostituenti qua. Il cloruro di paratoluen solfonile o il cloruro di acetile, nelle condizioni in cui si diceva prima, cioè ce le goccioli, ma lo puoi anche non gocciolare, perché l'unico che ha delle problematiche è questo. Per un altro motivo però, che ora vi dirò, tu ottieni 95-98% di prodotto di protetto, il quale rimane nell'interno della reazione e non viene attaccato dall'OH-, perché te o cosa ottieni? Ottieni un OCOR qualcosa. O COR qualcosa, che è un estere, che può essere ancora attaccato e idrolizzato dal MAOH al 20%, non ci pensa nemmeno. Perché te innanzitutto non scaldi, punto numero uno. E quindi non favorisci quelle reazioni che hanno un controllo entropico. Delta G è uguale a delta H meno T delta S. E la delta S è quando T è grande, T per delta S diventa un numero grosso. Ok. Te non scaldi, puoi portare a casa questo prodotto, puoi andare al bar a prendere un caffè, torni con calma, non ce lo lasciare due giorni perché chiaramente dopo un po' si stufa di stare lì e magari un po' si sputtana e quindi poi dovrai fare un'opera di purificazione, perderai un po' di resa e ti tocca però lavorare sulla purificazione, che potrebbe non essere banale su composti del genere. Nel giro di 10 minuti la reazione, 10 minuti in realtà è quantitativa immediatamente. Ce la lasci 5 minuti ancora a girare vorticosamente perché le ultime molecole si incontrino tra di loro e possano reagire. Togli, fai se vuoi una cromatografia di controllo, hai tutto il tempo per fare tutti i controlli che vuoi, non succede niente. Con calma ti porti a casa il tuo prodotto. Non hai dovuto distillare nulla, pensa che il tuo prodotto è praticamente puro al 99%. In questo contesto vedi che i doppi legami di natura cis e trans rimangono così come sono. Non c'è nessuna possibilità che questo idrogeno venga strappato e si possa isomerizzare questo doppio legame qui. Nessuna possibilità. È evidente che questa comincia a diventare una reazione interessante. Ovviamente il problema del soft e hard, ecco che qui si spiega bene questa cosa in questo modo, perché altrimenti e si sfata un mito che sul libro c'è scritto che non, i colori acidi, cioè sono molto reattivi, ma il colore acido che cosa fa quando te lo butti nell'acqua? Fuma, ma è l'acqua che lo ammazza, lo H- non gli fa niente, perché il doppietto dell'acqua è quello che è soft come il doppietto dell'ammoniaca. Tra il doppietto dell'acqua e quello dell'ammoniaca, in queste reazioni è chiaro che il doppietto dell'ammoniaca appare più nucleofilo e quindi sostanzialmente è lui che va a fare l'ammide. Non ci avevate mai pensato, no? Sono quelle cose incredibili. Per esempio, possiamo utilizzare questa reazione per fare la seguente trasformazione. Pirrolo più trietilbenzil ammonio bromuro di R in ambiente di OH- fa questo anione immediatamente. Come questo anione va in fase cloroformica e reagisce con un RX, R'X, ecco che noi abbiamo la formazione di questo signore, cioè l'1 alchil pirrolo. Questa reazione, se paragonata a quello che succede in fase normale, cioè in fase per esempio tetraidrofuranica, prevede tutta una serie di accorgimenti molto complessi, perché questo anione qui è un anione un po' cattivello, perché non solo fa questa reazione, ma lui prevede, attraverso le sue formule limite di risonanza, di dare anche sovente alchilazioni sia in posizione 2, alla fine della reazione tu ti trovi questo, sia in posizione 3, alla fine della reazione tu ti trovi questo. E che cos'è che cambia? Una serie di parametri incredibili. Cambia il solvente, come te cambi il solvente, la posizione 1 rispetto alla 2 o alla 3 cambia totalmente. Cambia il controione, come tu cambi il controione dal litio al sodio al magnesio al silicio, ecco che hai una 1 alchilazione, una 3 alchilazione, una 2 alchilazione. Perché? Perché ancora una volta siamo in condizioni hard e soft, cioè formula limite di risonanza, questo ha come formula limite di risonanza la carica negativa anche sovente in posizione 2 e in posizione 3. Questo composto qui, guardiamolo un pochino per bene come è fatto. Questo composto qui, il suo anione, non solo è un anione all'azoto, ma questa è una enammina. E le enammine hanno come punto di riferimento soft questo. Questo è un punto soft, questo è un punto hard. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a seconda della softness dell'elettrofilo, quindi dipendenza dal controione che c'ha, RCL, RI, già abbiamo una problematica. Indipendenza del solvente. Il solvente fa una cosa sull'anione qua, ne crea una coppia ionica più o meno agganciata. Allora, che cosa vuol dire agganciata? Vuol dire ingombro sterico, cioè se il controione sodio è staccato e se ne va per i cavoli suoi e questa carica negativa è libera di girare sull'anello aromatico, ecco che noi avremo più possibilità di trovare la carica negativa a giro sull'anello e ci sarà più possibilità da parte dell'elettrofilo di agganciare l'anello. Se invece la coppia ionica è fortissima, è agganciata e tiene la carica negativa qui sopra, vedrai che è solo qui sopra che l'elettrofilo attaccherà. Quindi è una reazione difficile da gestire. Sostanzialmente con il magnesio si ottiene tutto. Quando te fai questo anione con il magnesio, che vuol dire che devi trattare il pirrolo con l'etil magnesio bromuro, quindi te lo devi fare o lo devi comprare, costa un sacco di soldi, ci metti il magnesio qui. Quando vai a metterci l'elettrofilo, 60% di roba si appiccica qui e l'altro 40% si appiccica qui, con il 2 o 3% di roba appiccicata qua. Siamo fregati. Siamo fregati. Ma se te invece di fare la reazione col magnesio la fai in un solvente diverso che potrebbe essere il dimetilsolfossido, con il dimetilsolfossido e il sodio, te prendi il pirrolo, lo tratti col sodio idruro, lo tratti con il sodio idruro e in tetraidrofurano. Il sodio idruro in tetraidrofurano ti dà un risultato, il sodio idruro in dimetilsolfossido te ne dà un altro. Il dimetilsolfossido sostanzialmente si ottiene roba appiccicata all'anello aromatico, in tetraidrofurano si trova tutta roba appiccicata all'azoto. Basta cambiare il solvente, perché la coppia ionica era cambiata. Chiaramente la coppia ionica che cos'è? È un legante che si lega e quindi se si lega fortemente al controione, al sodio, al potassio, al litio, è chiaro che lo softizza o lo hardizza a seconda del tipo di solvente che c'è, quindi ne cambia la reattività. Quindi, una cosa complicatissima nel caso della nostra catalisi in trasferimento di fase, te ci avrai sempre roba soft, te ci hai sempre l'unico composto che reagisce sempre in ogni caso è all'azoto, non c'è altro, non succede nient'altro, non ci sono sottoprodotti di nessun tipo sul pirrolo, sull'indolo, che è lo stesso composto però mezzo condensato, si ha alchilazione qui. Anzi, a questo proposito, noi possiamo utilizzare l'indolo per fare due cose. Il primo step, ci puoi mettere, che ne so, un metile, se vuoi metterci qui, un metile. Perché poi sai che se te parti da un composto fatto così, il primo idrogeno che si sanifica è questo, ma poi ci sono altri due idrogeni che si sanificano qui e te puoi arrivare a ottenere selettivamente, quindi non miscele di prodotti, per esempio con la metilazione, metile, metile, COOR, così, Questa è una domanda. Su quello l'abbiamo visto prima, cioè sul pirrolo. Sì. Allora, abbiamo detto che l'azoto è hard. Sì, l'azoto è hard nelle lamine, certo. Questo è la parte hard delle lamine, sì. Quindi noi riusciamo a controllare, diciamo, se vogliamo l'attacco all'azoto o al carbonio. Sì. Però dei due carboni, come facciamo a controllare se l'attacco avviene in due o in tre? Oh, dunque, il controllo è abbastanza difficile, però c'è un sistema per farlo. Dunque, ragioniamo così. Il pirrolo, oltre che essere una mina, è un'enammina, oltre che essere un'enammina è un liene, oltre che essere un liene è un composto aromatico. Quindi come gli gira fa una di queste cose. Se si ricorda di essere un composto aromatico, lui preferirà sempre la posizione 2 rispetto a quella che sarebbe la posizione 3, cioè lui che si comporta da enammina. Questo, in questo contesto, è sempre così. Se io voglio farlo comportare da enammina, il trucco c'è. Prendo il pirrolo, lo tratto con solidruro e cloritrimetilsilile, ci metto il trimetilsilicio qui, va bene? E questo è il trimetilsilindro. A questo punto io ci aggiungo, per esempio, RX più AlCl3, cioè faccio una reazione di Friedel-Crafts, va tutta in posizione 3. Perché lui si ricorda di essere un'enammina. Oh, non ho cambiato strategia, perché le cariche sono sempre le stesse. Qui c'è il silicio, che però mi dà un legame covalente, sono agganciato all'azoto, sull'azoto non ci posso andare. Ma la trimetilsililammina è come il trimetilsililenoletere. E quindi c'ha la posizione carbonio soft, libera, io ci metto qualcosa di soft. Sto facendo una reazione di sostituzione elettrofila aromatica, che va bene con le cose soft. Ok? Qui solamente in tre. È un trucco, È un trucco. Oppure te puoi, sul pirrolo e sull'indolo, metterci in posizione 1, come gruppo protettivo, il paratoluensolfonile. Il paratoluensolfonile ce lo metti, fai la tua reazione in posizione opportuna, quindi la 2 in questo contesto. È una strategia di sintesi. Qui il tosile. A questo punto te puoi far reagire tutto qui e poi il tosile lo togli con litio alluminidruro. Litio alluminidruro, vedi che l'H- è soft? Perché sennò non andrebbe a reagire sul tosilato che è soft. Non ce la potresti fare. Qui per togliere il silicio, dopo che hai fatto questo giochino, ci devi mettere il fluoro meno. Perché? Con lo H- è col cavolo che ce lo togli, perché lo H- è hard, ma il silicio è talmente più hard che se non ci metti il fluoro meno non si stacca. Sì. Bene. Perché con la chimica si può fare tutto, però la chiave di lettura ce la devi avere. Bueno. Oh, questa reazione qui di trialchilazione aveva delle caratteristiche fondamentali. Innanzitutto qui si usava l'etile come estere, quindi ci abbiamo messo 3 metili, figurati, il tempo di metterci 3 metili, sono passate 3-4 ore, non si è sporcata la reazione minimamente, ha resistito. Chiaramente l'NaOH ce l'abbiamo messa al 5%, ma ha funzionato lo stesso, è andata più avanti, più lungo nel tempo, ma l'estere non si è idrolizzato. Questa reazione poi ti fa prendere un infarto, perché quando ti fai la cromatografia c'hai l'indolo di partenza, subito dopo l'indolo comincia a scomparire e compare il primo picco, che te dici è il primo metile che entra. Ci aggiungi altro ioduro di metile, dopo un po' scompare questo e compare un altro picco, e questo qui ce n'era ancora un pochino, compare un altro picco ed è metile, vai avanti, ancora aggiungi metile, ioduro di metile, e succede una cosa strana, scompare il picco di questo qui e ricompare un picco fatto così, cioè la reazione torna indietro e te non capisci perché. Allora è successo qualcosa, ci metti ancora più duro di metile, scompare addirittura questo e ricompare questo. È una fregatura che si ottiene tantissime volte quando uno non sta attento. La lezione non è tornare indietro. È che per puro culo il trimetil derivato ha lo stesso tempo di detenzione del prodotto prima. Quindi in realtà si stava formando il prodotto buono, che però dalla colonna cromatografica era trattenuto di meno per il suo ingombro sterico ed aveva esattamente lo stesso tempo di reazione dell'altro prodotto di partenza. E quindi te non capivi assolutamente che cosa stava succedendo. Quindi controllate sempre con due tecniche quello che succede, perché una tecnica sola potrebbe indurvi in errore grave. Questa è una delle cose che si impara, ahimè, con il tempo, ovviamente. Tutte queste reazioni possono essere fatte sui derivati, quindi, del benzene e del naftalene, perché ci fai i composti CH2CN, per esempio. Puoi decidere di usare il CN al posto del COR se hai paura dell'idrolisi, perché l'idrolisi dei nitrili si fa, ma in condizioni estremamente più drastiche, in autoclave, KOH a bollore per delle ore, sotto pressione, se no il triplolegame non si muove. Quindi puoi ottenere composti che poi potrebbero essere anche molto importanti, chirali, che ti danno origine a prodotti di questo tipo, che sono, quando li hai risolti, ormoni naturali della crescita delle piante. Tutta quella serie del brufen, ibuprofen, che sono antidolorifici, vengono fatti con tecniche del genere a questo punto. Quindi, benzene, naftalene, pirrolo, indolo, tiofene, tutti composti che reggono benissimo le condizioni di reazione. Il furano in ambiente basico sta benissimo, è la casa sua, non lo metti in ambiente acido, ma in ambiente basico ce lo puoi mettere e quindi puoi fare sugli alchil furani tutte queste reazioni che vengono benissimo, con delle reazioni buone. Nel fare queste reazioni si è usato il CHCl3. Ora, si può usare anche qualche altro tipo di solvente. Il CHCl3 era il migliore. Ovviamente si usa l'NaOH perché la KOH costa di più, sostanzialmente, e non c'è nessuna differenza. Il fatto che si sia però usato CHCl3 ha permesso a questo signore, che credo si chiamasse Macozza, di studiare le reazioni in trasferimento di fase, ma soprattutto di accorgersi di alcune reazioni del tutto imprevedibili che sono venute fuori come al solito per caso. Poi quando si scrivono i lavori si dice: no, ma io volevo fare veramente questa cosa qui che è venuta perché ci avevo pensato prima. In realtà non è così. Il cloroformio è una sorgente di carbeni, di diclorocarbeni. Nell'ambiente della reazione, se io faccio la reazione in un certo modo, il cloroformio partecipa alla reazione. E allora quello che succede è che CHCl3 più OH-, che è l'ambiente basico, dà origine a Cl, Cl, Cl, che ovviamente perde cloro per dare origine al diclorocarbenio. Allora qui ci vuole un discorso generale sui carbeni. I carbeni non devono essere considerati specie tremendamente reattive, sicuramente sono reattive, ma stiamo facendo un diclorocarbene in acqua. C'era un altro signore che riuscirà a fare poi diclorocarbene in acqua e si chiamerà Otto Fischer. Gli daranno anche il premio Nobel perché lui studia i carbeni metallo carbeni, e con la organometallica del cromo, del manganese, di tutti quegli elementi di solito di 6 carbonili, complessi cromo-carbonili, che sono fatti apposta per fare i carbeni. Se abbiamo tempo, magari se ne parlerà, perché sono reazioni industriali che possono essere utilizzate in green chemistry, perché la green chemistry favorisce l'utilizzo dei catalizzatori, e in quel caso i catalizzatori di Otto Fischer andavano benissimo per fare la metatesi delle olefine. Secondo aspetto dei carbeni: i carbeni si fanno bene quando sono stabilizzati da gruppi elettron attrattori. Una volta che tu quindi hai studiato la reazione che per caso ti era venuta fuori con diclorocarbene, e la puoi nello stesso ambiente di reazione, quindi trasferitore di fase sostanzialmente in acqua, fare altri carbeni che potrebbero essere per esempio questi. È un esempio, ma ti posso mettere anche questo, cioè carbeni che derivano dalla stabilizzazione del gruppo metilenico con un gruppo acile, un carbossi metile, un nitrile, potremmo utilizzare un NO2, un ciano, ecco, cioè cose che attirano gli elettroni. Quando probabilmente i ricercatori cominciarono a fare questa reazione per la prima volta, misero su l'apparecchiatura col CHCl3, l'NaOH al 20% e dissero: va, è tardi, si va a casa, domani ci si aggiunge l'altro reagente. Durante la notte la reazione gli è partita e ha formato il diclorocarbene, e alla mattina si sono trovati con in parte questo signore, che era il coupling del carbene con se stesso, e in parte si sono trovati col ciclopropano esaclorurato, che era legato alla reazione del diclorocarbene inserimento sul doppio legame carbonio-carbonio. Tutte reazioni che avvengono semplicemente perché la softness dei diversi reagenti è compatibile, perché il carbene è un diradicale, il diradicale è sostanzialmente soft. Quindi noi abbiamo dei carbeni che sono sostanzialmente molecole soft. Se noi riusciamo a pilotare questa reazione, ci possiamo fare delle cose meravigliose. Per esempio, noi possiamo fare in soluzione acquosa questa reazione che poi darà origine alla Simmons-Smith, si chiama così. Prendo questo coso, che è il ciclesene, lo faccio reagire con il diclorocarbene che deriva dal trasferimento di fase, e ottengo questo biciclo. Questo è un biciclo che noi, cioè, lo sapete la nomenclatura dei bicicli? Questo è dunque 0, questo è 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 4, questa è la posizione 1, 1 di cloro, tutto attaccato, biciclo eptano, dove questi numeri sono quanto da qui a qui si deve fare per passare dall'altra parte. Da qui a qui 1, da qui a qui 0, da qui a qui 4. 1, 0, 4, in posizione 1 c'è un dicloro, biciclo, e ci sono 6 atomi di carbonio. Sostanzialmente funziona così. Non me la chiederà mai nessuno, però questo composto qui ha una caratteristica fondamentale. Perché se io lo tratto con zinco, quello che succede è una specie di reattivo di Grignard con lo zinco, cioè lo zinco alchile. Quindi ZnCl, Cl. Che succede? Che si riforma un carbene, perché se ne va cloruro di zinco. Se se ne va cloruro di zinco, io ottengo praticamente una roba fatta così. Questa roba fatta così, qui c'è un doppietto di elettroni sostanzialmente, no? Quando questo fa così, Questo fa così il risultato della scomposizione di questo carbene che si forma è una molecola fatta così. Se te la vedi così, non capisci bene come è fatta, perché questo è un allene. L'allene sta dritto. In realtà, tra questo e questo, che sono questi due atomi di carbonio, ci sono altri uno, due, quindi uno, due, così, qualcosa del genere. Quindi ora vedete come in realtà ci sta nello spazio, grosso modo. È una reazione di espansione d'anello, è una reazione di allungamento di catena, è una reazione che quindi ha un suo preciso scopo, e possiamo farne una variante. Facciamo questa, che è carina. Noi ci abbiamo il pirrolo, l'abbiamo messo nell'acqua, e il pirrolo nell'acqua non si scioglie. Quando ci aggiungiamo il cloroformio e il triton B, va anche nell'acqua, l'anione, sotto forma di base, ma il diclorocarbene, se non gli facciamo altro, che si forma, farà la reazione di addizione. Il diclorocarbene è soft, quindi attacca un doppio legame soft. Il doppio legame dell'enammina è soft. Perché? Perché l'enammina è fatta così: azoto con due aggeggetti, carbonio, carbonio. E c'hai questa struttura limite di risonanza. Un carbonio che sostanzialmente un po' gli do gli elettroni, un po' gli ritolgo, facciamo finta che rimanga qui. Questo diventa molto negativo, facciamo finta che è così. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo è pieno e questo è vuoto. È chiaro che il carbene nucleofilo i suoi elettroni li mette qui dentro. Quindi, siccome il carbene è soft, questo è soft, la reazione avviene. Beh, morale della favola, N meno Cl, Cl. E qui, e qui c'è veramente da capirla bene sta cosa. Perché questo composto, a seconda che sia, forza degli elettroni è incredibile, a seconda che sia in questa struttura o a seconda che sia in una struttura diversa, cioè che io abbia fatto la reazione del diclorocarbene su un pirrolo di questo tipo, ci sono due andamenti completamente differenti. Perché agli elettroni non è che si comanda, gli elettroni seguono l'energia degli orbitali. Allora, questa carica negativa, se io la voglio far reagire, questo signore, ve lo ricordo, ma lo vedrete, è fatto così. N. E qui, fai conto, ci sarà Cl, Cl, H, H. Questo orbitale qui deve reagire per forza con un orbitale vuoto che è questo, di antilegame. Lui mette gli elettroni qui, lui mette gli elettroni qui. Questo si rompe, questo si rompe. E questo che va dalla parte opposta esce. Vedi? Questo si rompe. Questo è andato qui. Bene, quindi il risultato finale è che si ottiene questa più Cl meno. C'hai una espansione di anello da pirrolo a piridina. Ma a te ti sei fatto qualcosa che in posizione 3 ha un sostituente. aver fatto la cloropiridina, sai cosa vuol dire la tricloropiridina? Perché guarda, chi sa la chimbola di chimica dei composti eterociclici, sa che la piridina, le sue reazioni le dà in posizione 2 e in posizione 4. In posizione 3 ci mette delle cose come delle cose difficili, complicate. Metterci il cloro in quella posizione è una porta aperta al reattivo di Grignard. E metterci il reattivo di Grignard vuol dire che quella piridina poi la attacchi dappertutto, in posizione 3. Quindi, tutto quello che si sapeva fare sulla 2 e sulla 4 lo puoi fare anche in 3. Non è male questa cosa. Chimica del benzino compresa, cioè perché ci esiste anche un piridino. Quindi è una porta aperta questa qui a tutta una reattività della piridina che altrimenti si farebbe con grande difficoltà. E nell'altro caso? Come? Nell'altro caso. E nell'altro caso? Nell'altro caso, qui, fai conto per esempio di averci un R. Quindi anche se la metti nel trietilbenzilammoniobromuro con lo H-, l'N- non ce l'hai perché è coperto. Nell'altro caso, quello che succede è che è questo orbitale che interagisce con questi orbitali e che poi andrà a interagire con questa situazione qui. Quindi sostanzialmente è come se lui facesse questo giro, lui fa questo giro, lui che c'ha qui, ah poverino, ma ce lo vuoi mettere, che se no, CL, CL. Una volta che lui ha fatto questo giro qui, quello che succede è che questo si stacca e si apre così, perché lui non può che reagire con questi, ed è evidente che quando questo si piega in un certo modo, quello che si rompe è questo legame che butterà fuori questo cloro. È la geometria degli orbitali e non c'è niente da fare. Però qui si ottiene una cosa interessante. Si ottiene sostanzialmente, quando tutta la molecola si è rimessa a posto, questo composto qua. Perché ciò accade? Ciò accade perché gli elettroni si sono mossi in questo modo, ma questo composto qua, che sembra strano, in realtà non lo è. Noi abbiamo fatto una cosiddetta reazione di Reimer-Thiemann sul pirrolo, perché questi due atomi di cloro sono in posizione benzinica. Allora, la prima cosa che succede a questi due atomi di cloro è che si trasformano in COH, HOH, cioè si trasformano in RCHO. Io ho fatto la stessa reazione di Reimer-Thiemann. Che cos'è la reazione di Reimer-Thiemann? Ricordiamocela, dall'organica 2, la Menicagli non la faceva. Ora la facciamo, perché è una cosa industriale che si fa in acqua, quindi è un processo industriale stra-green. Fenolo, non costa nulla. OH- CHCl3. Non c'è neanche bisogno del trietilbenzilammoniobromuro, perché la prima cosa che succede è che il fenolo, poverino, si trasforma in fenato, e su cui non c'è problema. Il cloroformio si trasforma in dicloro metilene. Il dicloro metilene è un elettrofilo. Una cosa perché c'ha pochi elettroni, quindi è una carica positiva, è come un radicale. Un diradicale è quasi un carbocatione. Allora, questo elettrofilo, che è soft, deve reagire con la cosa soft. Ecco perché non va a rompere le palle allo meno. Perché uno si potrebbe chiedere, ma scusa, c'è un ossigeno meno. Vedi la eguaglianza di questa reazione con l'eguaglianza di questa reazione. Questo pezzo qui è il pezzo del pirrolo. È l'enammina che c'è nel pirrolo. Il doppio radicale si aggancia qui. Non va a prendere la carica negativa dell'azoto. E allora cosa succede? Succede che sostanzialmente il sito soft è questo. E quello che possiamo scrivere è la seguente cosa. Cl, Cl, meno H. Ora cominciamo a capire che forse la vera reazione Reimer-Tiemann è la seguente. Questo fa così e questo fa così. Vedi che è la stessa del pirrolo. Sui libri c'è scritto che arrivi subito qui. Sì, ho capito, ma devi capire bene com'è la situazione. A questo punto, questo idrogeno qui è un idrogeno acido, questo qui. E quindi si salifica internamente. Qui ci va la carica negativa, qui ci va il carbonio, qui ci va il cloro e qui ci va il cloro. Ovviamente riprendo l'aromaticità, perché sono contento, ci guadagno 36 kcal di stabilizzazione, fenato CHCl2. Chiaramente questo è un cloruro di benzale e quindi essendo un cloruro che dà origine a un buon carbocatione, attraverso una sostituzione elettrofila monomolecolare, sostituisce almeno uno subito degli atomi di cloro, così, con OH. Siamo in OH meno. Capisci a me che questa elimina subito acido cloridrico, perché tutte le volte che abbiamo un carbonio legato a due gruppi elettronegativi forti, questo sostanzialmente, come l'ossigeno e il cloro, non è stabile, è un po' un emiacetale, un cloro emiacetale. Ora è la favola, te hai fatto qualcosa che ti darà tra pochi istanti l'aspirina. Perché è l'acido acetilsalicilico, i tedeschi, Reimer e Tiemann, durante l'ultima guerra lo facevano così. Perché lo facevano così? I tedeschi sono quelli che hanno un po' scoperto la chemistry. Perché? Perché non avevano le colonie. Non avendo le colonie, non potevano fare come gli americani che estraevano i principi attivi dalle piante. Se li dovevano sintetizzare. Per questo motivo la loro chimica ha dato ampio spazio all'industria chimica e perché essa colmasse quella lacuna di materie prime con la sintesi, perché dall'estrattiva, dalla chimica estrattiva, queste materie non potevano venire in mano ai tedeschi, perché i tedeschi non ci avevano le colonie da dove si poteva estrarre da quella determinata pianta quella determinata cosa. La reazione di Reimer-Tiemann l'abbiamo fatta sul pirrolo e chiaramente la possiamo fare chiaramente nelle condizioni di trasferimento di fase. La reazione è più veloce, si fa prima e come vedete è evidente che l'idea, la chiave di lettura degli orbitali da utilizzare è una chiave di lettura grazie a Woodward e Hoffman che funziona benissimo. In realtà gli orbitali molecolari e atomici non sono fatti come dice Schrödinger, sono tutte cose completamente diverse, però è una chiave che funziona, perché si basa su un concetto fondamentale che è la simmetria, e siccome la simmetria è la base dell'universo, andiamo alla grande. Reimer-Tiemann sostanzialmente forma carbeni. Possiamo quindi immaginarci tutta una serie di carbeni che lavoreranno nella stessa direzione. Tutti quei carbeni che abbiamo visto prima che si possono generare con la chimica dei carbeni possono essere utilizzati. Per esempio, una reazione che noi ci possiamo inventare è la seguente. Lattosilazide. Lattosilazide è un composto, è quel composto che si fa dalla sodio azide con il cloruro di tosile. NaN3 più cloruro di tosile, parte con il solforite, viene fuori NaCl più tosilazide, tosile N3. La tosilazide in opportune condizioni di reazione da tosile N doppio legame più azoto. Che ne so? È un nitrene, mi sono fatto un nitrene. E nelle condizioni di reazione del trasferimento di fase queste reazioni sono note. Quindi se io faccio reagire questa reazione qui con questo, cosa succede? N tosile, io dovrei ottenere, come succede con le enammine in cui la reazione è già stata fatta, N tosile. Quando vado a fare l'allargamento di anello, perché io qui per esempio ho una carica negativa, l'allargamento di anello prevede questo, prevede questo, prevede questo. Cosa viene fuori? Viene fuori questo. Ho fatto un altro etericiclo. Questa reazione non è nota, me la sono inventata in questo momento. Però ci sono tutti i presupposti perché questa reazione possa avvenire. Se un giorno nella vita volete fare un etericiclo come questo, che è alla base poi di quelle strutture del DNA che servono a fare un sacco di cose, beh, lo fate in acqua con NaOH al 20%. Usando la tosilazide, che ora è un prodotto commerciale, non costa nulla. Se no, te la fai dalla tosilazide col cloruro di tosile, che non costa nulla lo stesso. Non è male. Cioè, cerchiamo anche di impostare il nostro discorso sulla base della invenzione. Perché la green chemistry è fatta in modo tale da poter essere un terreno fertile per potervi immaginare delle cose incredibili. Le reazioni di clorocarbene, poi, sono, come negli altri carbeni, abbastanza interessanti, anche fatte, per esempio, sui chetoni. È chiaro che questa reazione sarà un pochino lenta, perché hard e soft mi dicono così. Ma questo prodotto è sempre... che ti sembra strano, che è un epossido, l'1,2 di cloro, l'1,1 di cloro, 2,2 di alchil o sirano, potremmo chiamare così, qui ci sono i doppietti di elettroni, questo doppietto fa così, il cloro passa qui, guarda questa reazione, perché te hai ottenuto qualcosa che può essere importante. In un colpo solo hai aggiunto un atomo di carbonio alla catena e ci hai fatto l'alfa cloro di un cloruro acido, che è la porta di entrata agli amminoacidi. Il cloro ci metti l'ammoniaca per sostituzione nucleofila e il cloro dell'acido lo trasformi in acido. Ti sei fatto un amminoacido in un colpo solo. Questo tipo di reazione, in realtà, se te ovviamente la fai su un composto fatto così, ti aspetti il risultato finale, che è questo. Perché? Perché quando non puoi scegliere, piano piano il diclorocarbene si attaccherà al doppio legame carbonio-ossigeno. Ah, ti ricordo che questa reazione in realtà avviene sul doppio legame carbonio-ossigeno, perché il doppio legame carbonio-ossigeno ha l'orbitale di non legame vuoto soft. Perché, come al solito, carbonio-ossigeno è fatto così. Quindi questo pieno è pieno di elettroni, questo qui vuoto, che ospiterà il doppietto di elettroni, è soft. Quindi ce la fai per questo motivo, se no non ce la potresti fare. È evidente però che questo doppio legame, coniugato con doppio legame CO, è un doppio legame che ha caratteristiche di softness e quindi è più soft di questo, che comunque è polarizzato, perché questo è più covalente, e le cose vanno come devono andare, non ci sono sottoprodotti. Questa reazione mi ricorda altre reazioni che noi abbiamo fatto nel corso della vita. E, ce n'era una, credo che si chiamasse reazione di Arndt-Eichstätt, pensa te, che era la seguente: RCOCl più diazometano. Il diazometano dà origine al CH2N2, dà origine al carbene. Il diazometano non è un composto green. Però prendiamo questa reazione come obiettivo finale. Quello che noi si ottiene alla fine di questa reazione è RCOCH2Cl. Sostanzialmente, però, una volta si credeva, su qualche libro c'è scritto, che il diazometano si inserisse sul legame carbonio-cloro e non... è una cosa che non c'è, a me non va mai... Ora però sappiamo che possiamo scrivere un altro cammino, possiamo scrivere questo cammino. CH2Cl, vedi? Guarda che succede. Vedi che questa è la stessa reazione. Ecco, ora sappiamo, dopo aver studiato nel 1980 tutte le reazioni con diclorocarbene, ora abbiamo capito che il meccanismo della reazione di Arndt-Eichstätt era questo qui. Ecco, questo per dire, non me la sono inventata questo passaggio qui, mi è venuto in mente però che quello lì era uguale. Guarda un po' che cosa sto tentando di fare. Metto insieme dei pezzi di reazioni che sono talmente lontani nel programma che uno non ci penserebbe, no? Questa cosa qui, quando te la sai fare, vuol dire che sei a un punto di conoscenza della chimica organica, ovviamente. Quando è che la sai fare? Dopo 30 anni. Cioè, sì, prima non ti viene, non esiste. Però dopo 30 anni ti ricordi, ma c'era una reazione che una volta avevo visto, che era quasi così. Un'altra reazione, di quelle strane, veramente strane, che fa il diclorocarbene, e che voi potete utilizzare, perché sono reazioni che la gente conosce poco, ma sono green, con le ossime, il diclorocarbene con le ossime. Ma le ossime, voi sapete, che ne so, scriviamola qua, CHNOH, che sono in realtà, derivano dai nitroso derivati, perché lui in realtà deriva da RCH2NO. Il nitroso derivato sotto forma enolica, chiamiamola così, da l'ossima. L'ossima è più stabile del nitroso derivato. Quindi siamo a livello opposto a quello che succede con i chetoni e le aldeidi, cioè composti carbonici, in cui l'enolo è quella forma meno stabile termodinamicamente. Qui, se voi andate a vedere gli orbitali, scoprite che questa è la forma più stabile. È un problema di sovrapposizione di orbitali pieni e di orbitali vuoti, come al solito. In questo contesto io ho questi due composti, questo e questo. Ora, tra i due, questo è un legame più polarizzato che questo. Questo è quasi un legame carbonio-carbonio. Azoto e ossigeno, più o meno la stessa elettronegatività, quasi uguali come grandezza. Quindi io mi devo aspettare che il carbene finisca lì. Il carbene finisca lì. E faccia questo. Se è vero tutto quello che abbiamo detto, mi fai fare questa lezione anche questa volta, così. Che cosa verrà fuori? Verrà fuori RCH2NCl COCl. Nell'ambiente basico, perché sono in NaOH al 20%, quello che succede è che sia eliminazione di acido cloridrico, per cui non c'è bisogno di nessuna grande spiegazione. E la faccio bene. Eliminazione di se volete CO2 sotto forma di CO3 meno meno e la formazione di RC più legame N. Ho trasformato un nitrile, un nitroso, derivato in nitrile. Se voi ci fate caso, questa reazione finale è una reazione che noi troviamo anche nella chimica degli zuccheri. Sostanzialmente, è quando dobbiamo trasformare l'aldeide, dobbiamo demolire uno zucchero per farlo diventare più piccolo, con un atomo di carbonio in meno. E allora l'ossima si acetila, l'ossima che deriva dall'aldeide, aldeide trattata con idrossilammina da questa cosa qui, col cloruro di acetile, qui otteniamo OCOR, scaldiamo e se ne va via questo pezzo qua. Fries, reazione di Fries, credo di ricordare lontanamente qualcosa, demolizione, no, di Ruppe, demolizione di Ruppe. Beh, sono nomi così un po'. Fries era un'altra reazione, quella sul fenolo e cloruro d'acetile, con la LCL3, è una trasposizione. Fries, Fries, sì, come cavolo si chiama, eccetera, eccetera. Allora, ecco, comprendete perfettamente che questo meccanismo di reazione ora ce lo possiamo inventare perché abbiamo compreso come funzionano queste reazioni prendendo spunto da una reazione che sostanzialmente è la Reimer-Thiemann. Perché? Perché sul libro questi meccanismi non ci sono. Perché? Perché la reazione è talmente veloce che non si può studiare, quindi nessuno ne sa il meccanismo di reazione. Chi se ne frega? Ora lo sappiamo perché abbiamo preso in analogia altri pezzi di altre reazioni e lo possiamo fare solo se c'è un po' di conoscenza della cosa. Beh, quindi il carbene di clorocarbene, ma non solo, anche altri carbeni possono essere utilizzati e formati in acqua in trasferimento di fase e quindi ci permettono di fare un casino di cose che altrimenti non si potevano fare. Creare carbeni in altre condizioni di reazioni è estremamente pericoloso per l'industria perché certi tipi di carbeni, soprattutto se si fanno dai N3 derivati, sviluppando rapidamente azoto, potrebbero produrre situazioni incontrollate ed estremamente esplosive. L'asso di azide è quella cosa che si mette nell'airbag e quindi capite esattamente che quando una macchina si va a sbattere, l'acido solforico va a contattare la sodio azide e si sviluppa subito azoto, ma con una velocità allucinante, quindi in laboratorio non le puoi fare queste reazioni. Qui siamo in acqua. Ecco. Io mi fermerei qui e la prossima volta farei ancora degli altri esempi, perché con queste reazioni veramente ci si può fare di tutto, sostanzialmente anche lavorare su composti aromatici con le sostituzioni nucleofile aromatiche. Altro grande capitolo, le sostituzioni nucleofile aromatiche attivate, che ne so, da un nitrogruppo. Lì si lavora con dei nucleofili. Vuoi vedere che posso ottenere i nucleofili con il trasferimento di fase? Sarebbe una cosa meravigliosa, perché invece di usare, come al solito, il tetraidrofurano, il benzene, il solventi di difficile manipolazione, pericolosi, distillati sotto azoto, perché sennò gli anioni di solito sotto azoto finisce che alcune volte reagiscono con la CO2 dell'aria, con l'ossigeno, con l'azoto addirittura, e si sporca la reazione. Invece qui siamo in acqua, sarebbe una cosa meravigliosa, ma questo lo vediamo la prossima volta.